Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Viviamo in una società a 6.000 watt, ovvero lo stile di vita europeo è tale per cui, facendo la media di tutti i consumi energetici e suddividendoli sui suoi abitanti, mediamente si ottiene un flusso costante di energia pari appunto a 6.000 watt 24 ore su 24. Negli USA questo flusso è il doppio che in Europa, siamo infatti intorno ai 12.000 watt, mentre per esempio in Bangladesh questo flusso di energia pro capite è di soli 500 watt. L'idea di una riduzione netta dei consumi energetici, cioè insomma l'idea che la società possa prosperare consumando nettamente meno di quanto non faccia oggi, non è molto popolare. Di fatto anche i paesi più virtuosi puntano più che altro a stabilizzare i consumi e a sostituirli con le fonti di energia rinnovabile. C'è invece un paese che ha deciso di provare a fare sul serio con l'efficienza energetica. Parliamo della Svizzera, che ha fatto proprio un obiettivo estremamente ambizioso: puntare a una società a 2.000 watt entro il 2050. Ne parliamo con Marco Morosini, analista ambientale al Politecnico di Zurigo. Buonasera Morosini. Buonasera. Allora, intanto diciamolo subito, è un obiettivo concreto questo della Svizzera, non è solo uno studio o un'idea che circola? È un obiettivo concreto ed è diventato politica nazionale della Svizzera con la decisione del governo svizzero nel 2002 di mirare a una società a 2000 watt, una cosiddetta società a 2000 watt attorno al 2050. È diventato anche obiettivo di diverse città come Basilea, Ginevra e in particolare Zurigo, dove il popolo votante nel 2008 in un referendum popolare ha vinto con il 76% la proposta di iscrivere nella Costituzione del Comune di Zurigo l'obiettivo per l'anno 2050 di una società 2000 watt. Questo numero 2000 watt da dove viene fuori? 2000 watt, stiamo parlando di uso di energia, non solo energia elettrica, quindi anche per trasporti, riscaldamento, certo, e raffreddamento. Perché 2000? 2000 watt pro capite è l'attuale uso di potenza e quindi di energia nel mondo. Medio mondiale, con le differenze che abbiamo detto, no? 6.000 in Europa, 500 in Bangladesh. Esatto, questo è l'argomento dello status quo. Per non aumentare gli effetti ambientali negativi generati dalle trasformazioni energetiche tecniche. Questo è uno degli argomenti. Un altro degli argomenti proposto da alcuni autori, però è controverso, è che circa 1.500-2.000 watt pro capite sarebbero una soglia di prudenza volontaria per non danneggiare eccessivamente la biosfera e in particolare la biodiversità. Quali sono le critiche, cominciamo da qui, che vengono mosse all'idea di una società, chiamiamola così, a potenza limitata, con una soglia di consumo energetico autoimposta? Perché la Svizzera praticamente è l'unica ad aver scelto questa strada, no? Sì, questa è una strada completamente eretica, perché tutta la storia conosciuta dello sviluppo dell'umanità, l'aumento di benessere, l'aumento della popolazione e l'aumento dell'uso di energia pro capite sono sempre andati di pari passo. Quindi è stato assunto quasi come un dogma che per stare meglio si debba consumare più energia, avere sempre più energia. Invece l'eresia consiste proprio nel dire: noi possiamo e potremo e vogliamo stare altrettanto bene e anzi addirittura meglio nel 2050, meglio di oggi, però riducendo drasticamente l'uso di energia primaria. E la via maestra proposta dai fautori della società 2000 watt è quella dell'efficienza energetica. Se applicassimo in tutti i settori delle trasformazioni energetiche la massima efficienza energetica già oggi conosciuta, possiamo nel 2050 in Svizzera vivere meglio di oggi con solo un terzo dell'energia che consumiamo oggi. Ecco, però c'è proprio uno studio che insomma ho trovato citato in un articolo che lei ha scritto, in cui si sostiene che l'efficienza energetica potrebbe ridurre di 5 volte i consumi a parità, diciamo, di servizi e beni dei quali usufruiamo. È vero? Certo, da 6.000 a 2.000 è solo un terzo. È solo un terzo, però nello stesso tempo si aspetta e si desidera che l'economia cresca più del 60%. prima del 2050, quindi la scommessa è quella di dare con un terzo dell'energia non il benessere attuale, ma il benessere quasi che avremo nel 2050. Certo, certo, certo. Questa però secondo me è una scommessa azzardata, perché l'efficienza, se è da sola, non è la via maestra. Se guardiamo alla storia dell'umanità, da 10.000 anni due cose continuano a aumentare: l'efficienza energetica e nello stesso tempo il consumo totale di energia, perché l'efficienza energetica non sarà magari la causa dell'aumento del consumo, ma è ciò che permette l'aumento del consumo totale di energia. Quindi se è da sola l'efficienza non basta, insieme occorre anche quella che viene spesso definita sufficienza, cioè la riduzione delle pretese, la riduzione del numero e della quantità di servizi energetici che noi desideriamo per tutti gli oggetti e servizi che pensiamo siano indispensabili al nostro benessere e che in parte invece non lo sono. Quali sono le politiche che la Svizzera ha messo in campo concretamente per spingere in questa direzione? Ci sono dei primi approcci che consistono, per esempio, nel dare sovvenzioni al risanamento energetico degli edifici. Un'altra via molto più importante, molto più ampia nelle sue conseguenze, è quella di fare una riforma ecologica fiscale, che non c'è ancora, è in preparazione attualmente, in modo da aumentare la tassazione dell'energia e in generale la tassazione del consumo di natura, quindi prelievo di risorse, emissione di inquinanti, aumentare le tasse su queste voci e diminuire le tasse sul lavoro, diminuire le tasse sul reddito. Questo sarebbe un aumento progressivo del costo dell'energia, è una delle vie proposte, ma è controversa e non ha trovato per ora un consenso da parte né degli economisti né dei politici. Grazie Morosini. Grazie. È tutto, a lunedì.